Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia, grazie a Walter per la visita. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Sì, ma intanto nel frattempo La Caccia prevede un supplemento domani 14 febbraio presso la libreria Ticcun in via Montevideo 9 alle 19, alle 7 di sera, in occasione della mostra di Anna Rocco. Tutti gli amici e gli ascoltatori sono cordialmente invitati.